Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, troviamo scritto che Pietro e Giovanni furono portati davanti ai capi sacerdoti e agli anziani perché a motivo della guarigione che era stata compiuta su un uomo zoppo fin dalla nascita, che era avvenuta al tempio presso la porta chiamata Bella. Voi sapete infatti che quell'uomo zoppo fu guarito, ottenne una perfetta guarigione in presenza dei giudei mediante la fede che si ha per mezzo di Cristo Gesù. Ebbene, Pietro e Giovanni, mentre parlavano al popolo, avvenne che, la scrittura dice, i sacerdoti e il capitano del Tempio, capitolo 4 degli Atti, e i Sadducei sopraggiunsero, essendo molto crucciati, perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti, e misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché già era sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Ebbene, il giorno seguente, appunto, Pietro e Giovanni furono, diciamo, portati davanti ai capi, agli anziani, gli scribi, e questo a Gerusalemme. C'era anche Anna, il sommo sacerdote, Caiafa, Giovanni, Alessandro, tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. Ebbene, Pietro naturalmente rispose alla domanda che gli fu fatta loro, cioè la domanda fu: con qual potestà o in nome di chi avete voi fatto questo? Allora Pietro rispose e dopo la sua risposta avvenne che, dato che appunto questi giudei non potevano dire niente contro quello che era avvenuto, perché effettivamente c'era stata una guarigione e quindi era inconfutabile, allora c'è scritto che quando ebbero comandato loro di uscire dal concistoro, conferirono fra loro dicendo: che faremo a questi uomini, che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo e noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non lo possiamo negare, ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo, divietiamo loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome. Dunque usarono appunto le minacce per fare desistere questi servitori del Signore dal predicare l'Evangelo. Usarono appunto una tecnica che ancora oggi molti usano, che è quella della minaccia. Allora, dice la scrittura, avendoli chiamati, ingiunsero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù, ma Pietro e Giovanni, rispondendo, dissero loro: giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. Ebbene, questa fu dunque la risposta di Pietro e Giovanni. Non cedettero neppure per un istante a quelle minacce, perché loro si studiavano di ubbidire a Dio in tutto e per tutto, a costo naturalmente di mettersi contro le autorità religiose del tempo. E quindi cosa avvenne? Che i capi sacerdoti e gli anziani La scrittura dice: minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando nulla da poterli castigare per cagione del popolo, perché tutti glorificavano il Dio per quel che era stato fatto, poiché l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Dunque, davanti a quel miracolo della guarigione ebbero la bocca chiusa, perché i nemici della verità hanno sempre la bocca chiusa davanti all'operare di Dio. Perché? Perché l'opera di Dio è perfetta, è inconfutabile. Non è che quello che fa il Signore può essere confutato dai nemici della verità. No, perché le sue opere sono verità. E quindi in questa circostanza vediamo quanto siano potenti le guarigioni compiute nel nome del Signore Gesù. Cioè, sono così potenti che turano la bocca ai più acerrimi nemici dell'Evangelo. Si trattò veramente di una perfetta guarigione, come la chiamò appunto l'Apostolo Pietro. Ebbene, dunque, Pietro e Giovanni, la scrittura dice, leggo dal versetto 23, dopo che appunto li minacciarono di nuovo, li lasciarono andare, ecco che cosa c'è scritto. Or essi, essendo stati rimandati, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano loro dette. Ed essi, udite, le alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo, per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide, ha detto: perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisato cose vane? I re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro il suo unto. E in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano raunati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo, annunziavano la parola di Dio con franchezza. Dunque tornarono ai loro e tutti appunto coloro che appunto sentirono quello che Pietro e Giovanni riferirono, dice, uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio. Quindi ci fu una preghiera innalzata a Dio di pari consentimento. Voi sapete che il pari consentimento, quando si prega assieme, è indispensabile. Bisogna essere di pari consentimento. A tale proposito vi ricordo quello che ebbe a dire Gesù. Gesù disse: se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dovunque due o tre sono raunati nel nome mio, qui vi sono io in mezzo a loro. Vedete, in questa preghiera innalzata a Dio di pari consentimento da quei nostri fratelli, noi vediamo appunto un accordo tra essi. Nel chiedere a Dio determinate cose. Dunque, cosa dissero? Intanto, in questa preghiera, per prima cosa, fecero presente chi era Dio, chi era colui al quale essi si stavano rivolgendo. E faremo bene anche noi, quando preghiamo a Dio, a fare presente nel cospetto di Dio chi è colui al quale ci stiamo rivolgendo nel nome di Cristo Gesù, perché noi ci accostiamo al trono di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, perché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Dunque, noi sappiamo chi è colui al quale noi ci rivolgiamo in preghiera. È colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Ossia, egli è il creatore di tutte le cose. Egli è colui che ha il suo trono nei cieli. Come dice anche che come dice anche in un versetto, il cielo è il mio trono, dice il Signore, e la terra lo sgabello dei suoi piedi. Considerate dunque chi è colui al quale noi ci rivolgiamo in preghiera. È lo stesso Dio a cui si rivolsero in preghiera questi nostri fratelli, così tanto tempo fa. Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Quindi questi nostri fratelli, che appunto erano discepoli di Gesù Cristo, non credevano a teorie assurde su come fossero venuti all'esistenza il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che appunto sono in essi, perché anche a quel tempo c'erano teorie, di svariati generi che circolavano sull'origine del cielo, della terra, del mare, di tutte le cose che sono in essi. Ma vedete, loro credevano in quello che dice la Sacra Scrittura. Sì, perché vedete, la Sacra Scrittura è la parola di Dio, la parola di Dio è verità. La Scrittura dice che nel principio Dio creò i cieli e la terra. Dunque, egli è colui che ha creato tutte le cose, è il creatore, il creatore, perché quello che noi vediamo non è venuto fuori da non è il prodotto di una esplosione avvenuta miliardi di anni fa, dalla cui esplosione sarebbero venute fuori appunto tutte le cose che noi vediamo, no? La cosiddetta teoria del Big Bang, della grande esplosione. Quella è una ciancia, è una bugia, è una menzogna generata dal diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. Allora, ricordatevi sempre questo: Dio, colui al quale noi ci rivolgiamo in preghiera nel nome di Gesù Cristo, è il creatore di tutte le cose. Quindi considerate sempre quanto Dio è grande, perché vedete, con questa dichiarazione quei discepoli vollero sottolineare la grandezza dell'Iddio al quale essi si stavano rivolgendo. Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Quando vedo oggi moltitudini di persone che appunto si rivolgono a statue, a immagini, per chiedere ora una grazia, ora un'altra grazia, per chiedere a quell'immagine, a quella statua di intervenire, di fare e così via, veramente riconosco quante siano, fitte le tenebre che avvolgono questo mondo. Mi rendo conto che tutto il mondo giace tutto quanto nel maligno. Mi rendo conto quanto sia vera veramente la parola che definisce il diavolo il seduttore di tutto il mondo. Avete visto, qui in Italia ci sono milioni, milioni, milioni di anime che corrono, letteralmente corrono e vanno in delirio, vanno in visibilio per quegli spauracchi dei loro idoli che rappresentano Maria, Gennaro, Antonio, Rosalia e così via. Quanti ce ne sono? Io non lo so quanti ce ne sono, ma ce ne sono veramente tantissimi di questi idoli in questa nazione. Sapete che ogni paese, ogni città c'ha un cosiddetto santo patrono che viene invocato, in particolare durante la festività, no? la festa patronale, a cui vengono dedicati dolci, pranzi, preghiere, invocazioni, quelle sono veramente cose diaboliche, sono tutte cose vane, perché veramente si rivolgono a degli idoli che hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno piedi e non camminano, infatti li devono portare sul baldacchino. Sul baldacchino li devono portare, talvolta qualcuno inciampa, qualcuno cade a terra, perché Dio li fa cadere a terra per svergognarli, a questi che portano appunto questi baldacchini con il loro idolo là sopra, che sta naturalmente rigorosamente in silenzio perché non può parlare, e poi ogni tanto appunto Dio fa cadere pure gli idoli, che veramente spesso si frantumano, si rompono e tutta la gente si rattrista, quelli che sono lì nella processione si rattrista, c'è chi si mette a piangere, c'è chi cade nella disperazione, rendiamoci conto in questa nazione cosiddetta cristiana quanta idolatria che c'è fomentata dalla Chiesa Cattolica Romana. Una chiesa immersa nelle tenebre, perché è una chiesa che promuove l'idolatria, la superstizione, l'eresia, eppure tanti che si dicono evangelici non fiatano contro queste abominazioni della chiesa papista. E io invece, con l'aiuto che viene da Dio, voglio levare la mia voce contro queste opere del diavolo che veramente portano le anime in perdizione, perché vi ricordo che gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, che sia chiaro a tutti, e ricordatevi che gli idolatri quando muoiono non diventano cristiani, perché io so che poi quando muoiono questi idolatri, tutti cominciano a dire è andato in cielo col Signore, no, gli idolatri, vi posso assicurare, non vanno in cielo, non entrano nel regno dei cieli perché vanno all'inferno. Dico questo perché anche in mezzo agli evangelici purtroppo c'è questa idea che i malvagi quando muoiono diventano buoni, cioè in automatico proprio, quando muoiono diventano buoni, anche i boss mafiosi, i pedofili, tutti diventano buoni all'istante in cui muoiono. Tutti, come dicono loro, vanno nella casa del Padre, o ci fosse uno che dal pulpito dice che questi uomini peccatori sono andati all'inferno, che sono all'inferno, dove veramente sono tormentati in mezzo al fuoco, ma ce ne fosse uno, c'hanno la paura di dire la verità, che conoscono alcuni, poi ci sono quelli che proprio la verità non la conoscono e quindi non dicono niente perché non la conoscono la verità, però ci sono quelli anche che conoscono la verità ma non la dicono e sono codardi, c'è una massa di codardi in mezzo alle chiese evangeliche. E allora, fratelli del Signore, ricordiamoci che il nostro Dio non è una statua, non è una statua che dobbiamo portare su un baldacchino, il nostro Dio è il creatore di tutte le cose, e Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito, è verità, ecco perché noi non ci facciamo immagini alcuna di Dio, non ci facciamo alcuna statua, nessuna immagine, non lo dipingiamo, no, Dio è spirito, e noi l'adoriamo in spirito e verità, come appunto la Sacra Scrittura dice, perché gli adoratori che il Padre richiede sono questi. Vi ricordate infatti cosa disse Gesù? Dice così: l'ora viene, anzi già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Quindi senza l'ausilio di queste statue, di queste immagini che sono idoli nel cospetto di Dio, e voglio cogliere l'occasione per, dire questo, non esiste un culto delle immagini o delle statue gradito a Dio. Dico questo perché nell'ambiente protestante evangelico ci sono coloro che si fanno statue di Gesù, immagini di Gesù e così via. e che gli rendono comunque sia un servizio, anche quelli sono idoli, e vanno veramente odiati quegli idoli, e coloro che li servono vanno chiamati con il loro nome, idolatri, anche se sono protestanti, perché purtroppo anche in seno alle chiese protestanti c'è idolatria, non viene condannata peraltro quella nella chiesa cattolica, figuriamoci se viene condannata quella che c'è nelle chiese protestanti, ha una vergogna. E poi costoro ti vengono a citare il principio della sola scrittura, ma quale principio della sola scrittura? Molti protestanti, altro che sola scrittura, vanno contro la scrittura, è uno dei punti in cui ci vanno, è appunto in questo, perché anche loro si fanno immagini, sculture, sì, di cose che sono lassù nei cieli, e li servono queste cose, a loro modo li servono, guai a chi glieli tocca, quegli idoli, quegli spauracchi dei loro idoli, bisogna veramente che la voce sia levata forte e chiara anche contro gli idoli delle chiese protestanti, quindi noi quando preghiamo ci rivolgiamo a colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E quando ci rivolgiamo a Dio, noi ci accostiamo a Lui con timore, con tremore, perché Egli è il tremendo, Egli è il terrore di Isacco. Per l'ira sua trema la terra. Trema la terra, avete capito la terra perché trema? La terra trema per questa ragione, per l'ira di Dio. Non è madre natura che fa tremare la terra, quella che loro chiamano, tanti evangelici, ignoranti e insensati, chiamano madre natura. Ci rendiamo conto? Attribuiscono i terremoti a madre natura, esattamente come fanno i pagani. D'altronde credono anche loro nella fortuna, nella dea fortuna credono. Quindi ecco chi è colui al quale noi ci rivolgiamo in preghiera. E quando Dio s'adira, le nazioni non possono reggere dinanzi al suo sdegno. E vi ricordo, dato che ci sono, che lo stesso Dio che manda i terremoti manda pure i fulmini contro i suoi avversari, proprio glieli lancia contro. Il Signore manda gli alluvioni, manda la siccità. Manda anche le bestie feroci, manda anche i serpenti per punire le nazioni, gli manda i topi, gli manda le cavallette. Il nostro Dio è tremendo, il nostro Dio è un fuoco consumante che giudica, castiga le nazioni. Avete capito chi è Dio? Ebbene, si rivolsero quindi a colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi. E poi ricordarono appunto questi nostri fratelli quello che aveva detto Davide per lo Spirito Santo. Voi sapete che lo Spirito Santo parlò per bocca di Davide, il dolce cantore di Israele. Proprio lo Spirito Santo parlò per bocca di questo uomo, che era un uomo secondo il cuore di Dio. Lo Spirito Santo parlò per bocca di Davide e disse tante cose, però qui ecco loro ricordarono delle parole che concernevano appunto diciamo quello che sarebbe avvenuto al Cristo, ossia all'unto di Dio. Sono parole queste scritte in un salmo che appunto loro citarono in questa preghiera. Questo ci ricorda che quando noi preghiamo in Dio è lecito anche citare diciamo parti della Sacra Scrittura, come il Signore appunto ci guida. Queste parole sono tratte dal Salmo 2, cioè dal Salmo 2, e queste parole si sono adempiute in Gesù di Nazaret. O meglio contro Gesù di Nazaret, perché queste parole parlano di una avversità che si sarebbe, diciamo, scatenata per naturalmente volere di Dio contro l'unto di Dio, anzi contro Dio e contro il suo unto. Infatti queste parole di Davide sono le seguenti: perché hanno fremuto le genti, hanno i popoli divisato cose vane, i re della terra si sono fatti avanti, i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro al suo unto. Vedete quell'espressione, il suo unto è il suo Cristo o il suo Messia, perché il termine Cristo e Messia sono appunto, diciamo, sono uguali sostanzialmente, perché appunto uno viene dal greco, Cristo, e l'altro viene dall'ebraico, Messia. Però i due termini significano ambedue unto. Allora, queste parole che appunto furono citate da questi nostri fratelli, come voi potete vedere, trovarono compimento in quello che fu fatto a Gesù. Infatti loro dissero: è in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto. Notate questa espressione, notatela attentamente: Gesù viene chiamato santo servitore di Dio. Infatti Dio stesso chiamò il suo unto suo servitore. Infatti questo lo troviamo, questa conferma la troviamo in Isaia capitolo 42, dove Dio disse tramite il profeta Isaia: ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia, io ho messo il mio spirito su lui ed egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Queste parole di Isaia concernono il Cristo, cioè l'unto di Dio. E vedete come Dio in che termini parla del suo unto: lo chiama il mio servo. Ecco perché questi nostri fratelli chiamarono Gesù il santo servitore di Dio, che dice tu hai unto. Eh sì, perché fu Dio a ungere di Spirito Santo e di potenza il suo santo servitore Gesù. Questo avvenne al Giordano, vi ricordo appunto dove avvenne questa unzione, quando il Dio posò il suo spirito sopra Gesù. Avvenne dopo che egli fu battezzato. Infatti la scrittura dice, leggo in Matteo, dice: Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua ed ecco i cieli s'apersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dei cieli che disse: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Dunque ecco quando Gesù fu unto. Ebbene, contro l'unto di Dio si radunarono chi? Erode e Ponzio Pilato. Allora Erode era il re, Ponzio Pilato era il governatore della Giudea. Notate che c'è scritto contro, quindi anche, diciamo, quello che fece Ponzio Pilato, la decisione che Ponzio Pilato prese fu una decisione contro Gesù, sia chiaro questo. Voi sapete che Ponzio Pilato si lavò le mani in presenza di tutti, perché quando vide che appunto il popolo gridava crocifiggilo, crocifiggilo, cosa dice la scrittura? Leggiamo in Matteo capitolo 27, dice: Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine, dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo rispondendo disse: il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. Allora egli liberò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Quindi questa decisione, naturalmente, di Pilato fu una decisione contro il Signore Gesù. Fu una decisione che lui prese per compiacere ai giudei. Allora, oltre a Erode e Ponzio Pilato contro Gesù, si schierarono i gentili e poi tutto il popolo di Israele. Tutto il popolo di Israele! Ricordiamole queste cose, eh? Soprattutto a coloro che si definiscono amici di Israele, eh? Sì, sì, amici del mondo sono. Quelli che si definiscono amici di Israele, i sionisti, eh? Quelli sono amici del mondo, perché si sono, sono amici degli anticristi, perché i giudei disobbedienti, quelli che negano che Gesù è il Messia, sono degli anticristi, eh? E che fanno molti che si definiscono cristiani? Hanno stretto un patto di amicizia con chi? Con gli anticristi, ma ci rendiamo contro, io li chiamo quelli della sinagoga. Ancora oggi è così, sì, in mezzo alla Chiesa, ce ne sono tanti di costoro, ce ne sono tanti di costoro, che poi sono quelli che rifiutano di annunciare il ravvedimento, l'Evangelo ai giudei, perché? Perché dicono, ma sì, ma tanto i giudei poi si salvano da loro stessi osservando la legge di Mosè. No, i giudei non si salvano osservando la legge di Mosè, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata al suo cospetto, perché per la legge è data la conoscenza del peccato, non è data la giustificazione dal peccato. La giustificazione dal peccato si ottiene solo ed esclusivamente credendo che Gesù di Nazaret è il Messia, eh? Sia veramente questo ben chiaro a tutti coloro che appunto hanno stretto amicizia con gli anticristi, eh? Non c'è possibilità di salvezza per gli ebrei disubbidienti, non ce n'è, perché in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, disse Pietro, che era ebreo, ma era un ebreo che aveva creduto che Gesù di Nazaret è il Messia, e Pietro non stringeva patti con la sinagoga, Pietro non stringeva alleanze con i capi sacerdoti, gli anziani, il sommo sacerdote di allora, le autorità religiose di allora, no, non stringeva nessuna di queste alleanze, infatti fu perseguitato anche Pietro dai giudei disubbidienti, per quale ragione? Perché Pietro era un servitore di Dio ed annunziava la buona novella che Gesù di Nazaret è il Messia. E allora questa è la ragione per cui appunto gli ebrei perseguitarono Pietro e gli altri apostoli. Perché oggi tante chiese che si definiscono cristiane non sono disprezzate dagli ebrei? Perché non sono, diciamo, odiate dagli ebrei? Perché? Ve lo siete chiesti? Io me lo sono chiesto e ho trovato anche la risposta. Perché queste chiese sono amiche degli anticristi. Amiche, sì, bisogna chiamarle così, amiche degli anticristi, infatti mi odiano, mi disprezzano, sì, queste chiese, guardate, io vi posso assicurare che tra gli anticristi e me, questi cosiddetti evangelici sceglierebbero gli anticristi, un po' come il popolo, no? Che tra Barabba e Gesù chi scelse, chi volle che fosse liberato? Barabba. E Gesù invece, Gesù, crocifiggilo, la stessa cosa, questi sionisti che si sono infiltrati in mezzo e che sono presenti in gran numero in mezzo alle chiese evangeliche, io vi posso assicurare che questi qua si schiereranno sempre dalla parte degli anticristi, in una maniera o nell'altra. Perché? Perché sono amici degli anticristi. Questi non sono amici di coloro che credono che Gesù di Nazaret è il Cristo. Non gli interessa proprio niente. Infatti a loro non interessa se gli ebrei nella terra di Israele perseguitano i nostri fratelli ebrei, che veramente sono quelli che hanno creduto che Gesù di Nazaret è il Messia. No, non gli interessa proprio niente. Io faccio sapere queste cose, ma loro che fanno sapere? Ma loro che fanno sapere? Lo Stato di Israele è uno di quegli stati dove i discepoli di Gesù, il Messia, sono perseguitati, discriminati, disprezzati, odiati dagli ebrei disubbidienti. Eppure li sentite voi questi sionisti denunciare pubblicamente questo? No, lo fa Giacinto Butindaro però. Ma perché? Ma perché io amo il Dio e amo quelli che sono stati generati da Lui, tra cui ci sono anche degli ebrei, che si trovano anche nel territorio di Israele. Ma questi ciarlatani, seduttori di menti, corrotti, uomini e donne, fanno ribrezzo, quando io leggo veramente negli Atti degli Apostoli quello che hanno dovuto soffrire i servitori di Cristo Gesù, che erano ebrei di nascita, quando io penso alle sofferenze e alle persecuzioni che hanno dovuto patire questi nostri fratelli, le chiese di allora per mano dei giudei, e poi vedo oggi veramente moltitudini di sionisti che mi perseguitano a me, mi odiano a me, mi disprezzano a me, perché? Perché predico agli ebrei che si devono ravvedere, devono credere che nell'Evangelo, altrimenti l'ira di Dio resta sopra di loro e se ne vanno all'inferno quando muoiono, Perché? Perché non sono amico degli anticristi, io non sono amico di Caiafa, come invece lo sono questi veramente reprobi, perché sono veramente la vergogna della Chiesa. E io queste cose le voglio dire, le dico davanti, diciamo, dietro un computer, ma le dico anche di persona a chi di dovere, se mi capita davanti. Tutti coloro che mi conoscono sanno che io le cose che predico pubblicamente le predico anche privatamente. Quindi, e allora vi stavo dicendo, io quando considero le persecuzioni che hanno subito tutti questi nostri fratelli, leggete il libro degli Atti degli Apostoli, basta solo leggere il libro degli Atti degli Apostoli per capire l'odio che c'hanno gli ebrei disubbidienti verso i discepoli di Gesù. Oggi che cosa si vede? Si vedono tanti che si definiscono cristiani che camminano a braccetto, mano nella mano, con gli anticristi, con gli ebrei, con quegli ebrei che negano che Gesù è il Messia. Vi rendete conto? Potrei dire molto, molto, molto altro in relazione a questa amicizia. A questa amicizia sicuramente sponsorizzata dalla Knightbridge, dalla potente massoneria ebraica che si è infiltrata anch'essa nelle chiese evangeliche, che ha tutto l'interesse a sostenere il cosiddetto sionismo cristiano, perché in questa maniera mette il bavaglio alle chiese. E sapete, sanno come persuadere queste chiese a non predicare la buona novella che Gesù è il Messia. C'hanno diversi argomenti, con cui persuadono queste chiese a stare zitti. E queste chiese non predicano la buona novella che Gesù è il Messia. No, non dicono niente agli ebrei, no, ma quando mai, E comunque poi mi dicono che sono antisemita io, ma allora se io sono antisemita, che poi è un termine improprio come vi ho detto già altre volte, ma allora erano antisemiti pure Pietro, Giovanni, gli apostoli, Paolo allora, che antisemita era l'apostolo Paolo, antisemita pure Paolo, sono in buona compagnia allora, se io sono antisemita allora sono in buona compagnia, veramente mi glorio nel Signore di essere in compagnia di Pietro, Giovanni, Paolo, Stefano, no, io veramente mi glorio nel Signore di essere antisemita, come dite voi, come loro, vergogna. Vi dovete vergognare tutti voi che vi definite cristiani, che siete amici di Caiafa, o meglio del Sinedrio, diciamo per usare una metafora. E allora, fratelli nel Signore, con tutto il popolo di Israele, vedete, si schierarono tutti contro Dio e contro il suo unto. Per fare che cosa? Per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Quindi, tutto quello che, tutto il male che costoro fecero a Gesù. E gliene fecero tanto, Pensate. Ma pensate, Gesù, che dopo che fu unto di Spirito Santo e di potenza, andò in giro, andò attorno, come disse Pietro, facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Pensate, un uomo, che era anche Dio, vi ricordo, che fece così tanto bene in Israele, ma così tanto bene, Quanta gioia portò in tante case, guarendo così tanti malati, facendo saltare gli zoppi, resuscitando i morti, liberando gli indemoniati, facendo così tanti miracoli che dirà Giovanni che se si scrivesse, vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Ebbene, questo uomo che fece così tanto bene fu contraccambiato dagli ebrei. Con che cosa? Con il male. Non solo naturalmente dagli ebrei, però mi voglio concentrare appunto, diciamo, su quello che fecero appunto gli ebrei. Quanto male ha ricevuto? Fu perseguitato, vituperato, offeso. Poi, quando fu, dopo essere stato condannato a morte dal Sinedrio per bestemmia, perché Gesù dichiarò di essere il Cristo, il figlio di Dio, allora lo condannarono come, diciamo, reo di bestemmia. Dopo che, appunto, quando lo consegnarono nelle mani di Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, che cosa fecero? Gridarono crocifiggilo. E Pilato inizialmente lo voleva liberare perché non trovava nulla in lui che fosse degno di morte, ma quel popolo di collo duro, incirconciso di cuore ed orecchi, gridò crocifiggilo. E come abbiamo visto, poi Ponzio Pilato, diciamo, che prese la decisione che fosse fatto quello che il popolo chiedeva, e quindi sentenziò che fosse flagellato e poi crocifisso, annoverato tra i malfattori. Ebbene, tutto quell'odio che ebbero verso Gesù, tutte quelle persecuzioni, e poi, diciamo, la morte che gli cagionarono, ma anche tutti gli insulti che gli lanciarono, sono tutte cose che erano state innanzi determinate dalla mano di Dio, dal consiglio di Dio, che dovevano avvenire. Quelle cose dovevano avvenire. Quando leggete la storia di Gesù di Nazaret, ricordatevi di queste parole, che appunto questi nostri fratelli dissero in questa preghiera, perché con queste parole riuscite a capire perché Gesù di Nazaret ricevette tutto quel male dagli ebrei. Poi naturalmente anche dai romani, sicuramente, non sto mica giustificando i romani, avete visto, Ponzio Pilato mica era ebreo. Per cui chiaramente tutti hanno le loro colpe, però quelli che hanno ucciso il Signore Gesù furono i giudei. Questo è quello che gli apostoli credevano e insegnavano e predicavano pure. E quindi ancora oggi va predicato questo. Sì, gli si deve dire agli ebrei, pure agli ebrei gli si deve dire. I loro padri, i loro progenitori hanno ucciso il Signore Gesù. D'altronde hanno ucciso pure i profeti prima del Signore Gesù, quindi non è che ci meravigliamo, Non è che ci meravigliamo che poi abbiano ucciso il profeta, colui del quale aveva parlato Mosè. Ebbene, fratelli nel Signore, quindi queste parole, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero, spiegano appunto perché Gesù fu odiato, fu perseguitato, fu insultato, e poi condannato a morte dal sinedrio ebraico e poi consegnato nelle mani di Ponzio Pilato per essere crocifisso. E poi perché fu crocifisso? Queste parole marcatevele, fratelli, perché sono importantissime, importantissime. Quindi questo naturalmente sta a dimostrare che quello che Dio preannuncia lo ha innanzi determinato. Quindi quando Dio preannuncia un evento, quando Dio preannuncia un evento, non è come dicono alcuni che lo prevede ma non lo predetermina, no, no, lo prevede e infatti lo fa preannunciare, ma poi lo ha anche predeterminato. Infatti vedete, quello che avvenne a Gesù era innanzi stato determinato. Da chi? Da Dio. Quindi qualcuno dirà, ma allora la morte di Gesù era stata decretata da Dio? Certo, certo che era stata decretata da Dio, infatti noi diciamo che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Affinché quindi si adempissero le scritture profetiche, secondo le quali Gesù doveva essere trafitto, fiaccato. Vi ricordate infatti quello che aveva detto il profeta Isaia? Non ci stanchiamo mai di, diciamo, ricordarlo, di ripeterlo. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. È stato trafitto, non è che si autotrafisse, o si autofiaccò, no, perché sapete che adesso la morte di Gesù viene fatta passare come una sorta di suicidio, no, è stato trafitto da chi? Da chi? Da chi? Da chi è stato ucciso? Dai giudei. Quindi a motivo delle nostre trasgressioni. A motivo delle nostre iniquità, quindi la sua morte era una morte innanzi determinata da Dio per l'espiazione dei nostri peccati, perché lui il giusto si caricò dei nostri peccati nel suo corpo portandoli sul legno della croce. Capite? Quindi non fu una morte casuale o diciamo una morte frutto degli eventi, perché sapete come, diciamo, queste sono espressioni che vengono usate anche in mezzo a tante chiese, come per dire appunto che volete, le cose andarono così, pazienza, no, no, le cose andarono così perché Dio aveva innanzi determinato che avvenissero quelle cose, sono avvenute affinché le scritture si adempissero. Dio ha vigilato sulle sue parole che aveva pronunciato per bocca degli antichi profeti affinché quelle parole si adempissero. Dio ha eseguito su Gesù i suoi disegni. Quindi egli morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, secondo le scritture, affinché si adempissero le scritture, e poi apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Quindi avvenne tutto secondo il piano che Dio aveva prestabilito, che aveva formato in se stesso. Capito? Ecco perché gli antichi discepoli non credevano nel cosiddetto libero arbitrio, non credevano, diciamo, quella falsa dottrina che oggi viene diffusa in tante chiese, che l'uomo il destino se lo crea da sé. Non è così, fratelli. Gli eventi sono predeterminati da colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E dunque, e adesso, Signore, proseguiamo con questa veramente meravigliosa preghiera. Adesso, Signore, considera le loro minacce. Eh già, perché appunto erano stati minacciati gli apostoli, e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza. Ebbene, fratelli, la parola di Dio va predicata con ogni franchezza, non con sofismi, non con sapienza umana, non, diciamo, adulterata, no, va predicata con ogni franchezza. E questa preghiera ci fa capire che i servitori di Dio, cioè i ministri di Dio, quelli che lui ha stabilito che annunzino, diciamo, la sua parola, hanno bisogno che si preghi per loro affinché essi annunzino la parola con ogni franchezza. Sapete che l'Apostolo Paolo chiedeva, esortava le chiese affinché pregassero per lui e i suoi, diciamo, collaboratori, affinché annunziassero la parola con franchezza, come si conviene, perché la parola di Dio non può essere predicata come si vuole, la parola di Dio va predicata come si conviene, con ogni franchezza. Sento certe predicazioni veramente che sono allucinanti, sconcertanti, sembrano dei discorsi da bar, da bar. Oggi sentire predicare molti dal pulpito è come praticamente fermarsi davanti a un bar mentre si cammina e sentire gente che parla tanto per parlare. È una cosa vergognosa quello che sta avvenendo. Poi metteteci tutte queste pastoresse che hanno invaso i pulpiti e poi il quadro che emerge è veramente disastroso, drammatico, spaventoso. Voi li vedete a tutti questi che si presentano dietro il pulpito, non sanno manco loro perché si trovano dietro lì il pulpito, aprono una Bibbia, poi tirano fuori sti foglietti che mettono, che cercano di non fare vedere, ma poi alla fine si vede, no? Che hanno questi foglietti in mezzo alla Bibbia da cui devono leggere i loro appunti, i loro sermoni, eh? E quando non hanno foglietti vedete queste persone che fanno avanti e indietro, veramente cose strane, discorsi strani che fanno, cioè battute, eresie, assurdità, ma delle cose, ma stiamo vedendo in questi tempi il peggio del peggio, il peggio del peggio, e poi questi vengono chiamati servi di Dio, ma quali servi di Dio? Ma non sanno nemmeno parlare, non sanno nemmeno parlare. Eppure si trovano lì a parlare, non a predicare, a parlare, perché questi non sanno predicare, non sanno cosa significhi predicare la parola con ogni franchezza, perché loro non predicano la parola, loro predicano le favole, le assurdità, le eresie. Si inventano di tutto, mettono in bocca a Gesù parole che Gesù non ha detto, Fanno battute su Dio, su Gesù, vi ripeto, sembrano discorsi da bar, ma quali sermoni, ma quali prediche? E infatti io quando li devo sentire, perché sono costretto per confutarli, ma veramente mi si torce lo stomaco, ma perché veramente, cioè, a sentire queste persone viene solo di arrabbiarsi, perché non sono... diciamo uomini chiamati da Dio e mandati da Dio a predicare l'Evangelo. Infatti l'Evangelo non sanno nemmeno cosa sia costoro, non lo annunziano perché gli apostoli erano servitori di Dio, costituiti da Dio e mandati da Dio a predicare l'Evangelo, e infatti predicavano l'Evangelo, guardate l'Apostolo Paolo. Allora se uno dice di essere stato mandato a predicare l'Evangelo, deve predicarlo l'Evangelo, sì o no? Ma se uno dice che è stato chiamato a predicare l'Evangelo, ma l'Evangelo lo dovrà predicare, sì o no? Allora questi dicono di predicare l'Evangelo e l'Evangelo non lo annunciano. C'è qualcosa che non va, non mi pare? Non vi pare? È certo che c'è qualcosa che non va. Questi non sono stati chiamati e mandati a predicare l'Evangelo. Questi qua sono stati praticamente inseriti in un contesto denominazionale dalla massoneria. E infatti poi che cosa succede? Si vedono appunto i frutti. Sì, sì, si vedono i frutti. Costoro non predicano l'Evangelo, anzi odiano quelli che predicano l'Evangelo. L'Evangelo della grazia, l'Evangelo della nostra salvazione. Allora, i servitori di Dio... Quindi praticamente non stiamo parlando dei cianciatori, dei ribelli, dei seduttori di menti, non stiamo parlando dei falsi dottori, dei falsi apostoli, dei falsi pastori, stiamo parlando dei servitori di Dio. Imparate a chiamare servitori di Dio solo quelli che servono il Dio. Perché qui veramente adesso pure Bergoglio è diventato un servo di Dio per molti. Ma come si fa? Ma come si fa? Vanno a chiamare un servo di Dio uno che idolatra, eh? Uno che veramente va davanti alla statua di Maria e gli va a mettere l'incenso là, con l'incenso in mano, che vi posso dire io, o fa l'inchino. Ma ci rendiamo conto? Cioè non sanno nemmeno chi sono i servitori di Dio. Molti evangelici intendono per servitori di Dio chiunque parli di Dio. D'altronde anche Bergoglio parla di Dio, allora è un servitore di Dio. Ma attenzione, fratelli, questi non sono servitori di Dio. È come anche nelle chiese evangeliche, tanti che sono definiti servitori di Dio, non sono servitori di Dio. Ci sono tanti servitori del diavolo in mezzo alle denominazioni evangeliche, ci sono tanti servitori di Mammona, bisogna chiamarli col loro nome. Che facciamo qua? Chiamiamo tutti i servi di Dio? Così non sia, perché non tutti sono servi di Dio. Allora questa preghiera appunto riguarda i servitori di Dio. Allora vi stavo dicendo, i servitori di Dio hanno bisogno delle preghiere dei santi. Infatti io, sapete, vi ho chiesto diverse volte e tuttora vi chiedo di pregare per me affinché Dio mi dia di annunziare la sua parola con ogni franchezza, perché io riconosco che se riesco a predicare con ogni franchezza la parola di Dio è perché ci sono fratelli che pregano per me, fratelli e sorelle, non mica mi sono dimenticato di voi, sorelle nel Signore. No, io voglio ricordarmi di tutta la fratellanza, perché so che veramente ci sono appunto coloro che pregano per me affinché io annunzi la parola di Dio con ogni franchezza. E io ringrazio il Dio per come mette in cuore appunto a tanti di pregare per me affinché io possa annunziare l'Evangelo della gloria del beato il Dio come si conviene. Vedete, anche la franchezza viene da Dio, anche la franchezza. Sì, qualcuno dirà, ma tu sei stato chiamato a predicare la parola di Dio, sì, però ho sempre bisogno delle preghiere dei santi, Ho sempre bisogno delle preghiere dei santi. Guardate l'Apostolo Paolo che era stato appartato sin dal seno di sua madre, Dio lo aveva appartato sin dal seno di sua madre per l'Evangelo. L'Apostolo Paolo chiedeva ai santi di pregare per lui affinché veramente potesse annunziare il mistero di Cristo con franchezza. E io faccio la stessa cosa nei vostri confronti, fratelli. Pregate anche per me. Pregate anche per me affinché il Signore appunto mi dia di annunciare la sua parola con ogni franchezza, sempre alla gloria del suo nome, affinché il suo nome sia glorificato. Vedete dunque, concedi ai tuoi servitori di annunciare la tua parola con ogni franchezza. E non solo appunto fecero questa richiesta a Dio, ma anche gli fecero quest'altra richiesta, stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Vedete, questa è la testimonianza di Dio, che Dio aggiunge appunto a quella dei suoi servitori, ed è fatta appunto di guarigioni, segni e prodigi. Praticamente la stessa testimonianza che Dio aggiunse a quella del suo figliolo. Infatti sapete che Gesù guarì, la potenza del Signore era con lui, per compiere guarigioni, ma fece anche segni e prodigi di svariati generi. E tutto appunto perché Dio era con lui. Adesso c'è bisogno che la predicazione della parola di Dio sia accompagnata da guarigioni, da segni e prodigi fatti mediante il nome del Signore Gesù Cristo. E anche questa è una preghiera che vi invito a fare per veramente i servitori di Dio. Certamente tra i servitori di Dio ci sono coloro che, essendo apostoli, hanno i segni dell'apostolo. Ci sono anche dei servitori di Dio che hanno dei doni dello Spirito Santo per mezzo, che magari non sono apostoli, non hanno il ministero di apostolo, però magari sono evangelisti, hanno il ministero di evangelista, e allora praticamente hanno doni di guarigione, hanno il dono di potenza ad operare miracoli. Quindi bisogna sempre pregare affinché il Signore, in linea generale, aggiunga la sua testimonianza a quella dei suoi servitori. Peraltro il Signore si può usare anche di un pastore che non ha i doni di guarigione o il dono di potenza per miracoli per compiere una guarigione. Quindi bisogna sempre pregare affinché il Signore aggiunga la sua testimonianza a quella dei suoi servitori. Ma naturalmente poi ci sono dei ministri di Dio, facciamo l'esempio degli apostoli e degli evangelisti, che hanno proprio dei doni particolari che appunto costituiscono la manifestazione dello Spirito Santo e nelle loro riunioni o per le loro mani avvengono guarigioni e miracoli, perché voi sapete che i doni dello Spirito Santo sono distribuiti appunto a ciascuno secondo la volontà di Dio. Quindi non è che non tutti fanno miracoli, non tutti hanno i doni di guarigione, però la preghiera deve essere una preghiera fatta in linea generale, perché è giusto fare questa preghiera, perché c'è bisogno ancora oggi come allora che la parola dell'Evangelo sia confermata con guarigioni e con segni e prodigi. E fatemi dire, diciamo anche questo, fratelli, quando ci sono le guarigioni e i segni e prodigi fatti nel nome del Signore Gesù Cristo, sono evidenti. I nemici più acerrimi non possono negare che siano avvenuti, perché sono evidenti. I ciechi recuperano la vista, i sordi sentono, i muti parlano, i morti resuscitano, gli indemoniati vengono liberati, malattie di ogni genere spariscono, ma spariscono, capite? E così via. I zoppi veramente, i zoppi si mettono a camminare, i zoppi, gli storpi vengono guariti, E i servitori di Dio, a proposito, non dicono agli ammalati, comincia a dire sono guarito. No, non c'è bisogno. Perché? Perché quando avviene la guarigione lo dicono loro, gli ammalati che vengono guariti, sono stato guarito. Non è che devono dire per essere guariti, sono guarito. No. Sono guarito, lo diranno loro, proprio di loro spontanea volontà, o comunque sia perché mossi da Dio, nel momento in cui si vedranno guariti. Così avveniva anticamente, fratelli nel Signore. Invece adesso questi cianciatori, comincia a dire sono guarito, sono guarita. E quello comincia a dire sono guarito, sono guarita. Poi dopo, diciamo, dopo un po' di tempo, no? Praticamente questo qui o questa qui si vede che è ancora malato. Come mai? Perché non è stato guarito, non è stata guarita. Ma che modo di fare è quello di far dire sono guarito, sono guarita? Ma che modo di fare è? È un modo astuto, È un modo astuto, è un modo, una maniera non biblica, appunto, che viene usata, tramite la quale tante persone si illudono di essere state guarite e poi dopo le ritrovi malate come l'avevi incontrate. E comunque state molto attenti, perché molte di quelli che oggi vengono sbandierate come guarigioni non sono assolutamente vere guarigioni, perché non sono guarigioni mai avvenute, ma guarigioni immaginarie che poi alla prova dei fatti si dimostrano, diciamo, guarigioni mai avvenute. State attenti anche ai falsi segni e prodigi, Oggi ci sono, diciamo, diversi predicatori che usano, diciamo, varie strategie per creare falsi segni e falsi prodigi, sapete, no? Queste polveri dorate che scendono dal soffitto, sapete, in internet basta andare su YouTube e si vedono delle cose sconcertanti, no? O quello praticamente che dice di mutare l'acqua in vino, è acqua colorata, che loro riescono praticamente a creare, sì, proprio davanti a chiese pentecostali tutto questo avviene. e ci sono veramente impostori di ogni genere in mezzo al movimento pentecostale. Quindi state molto attenti, fratelli, io lo ripeto ormai da molti anni, ci sono veramente molti falsi ministri che per farsi grandi appunto diciamo operano in questa maniera. Comunque il Signore poi ti svergogna, sono operai fraudolenti. Quindi vedete, c'è bisogno appunto della testimonianza di Dio e noi appunto desideriamo ardentemente che ci sia questa testimonianza, che Dio aggiunga questa testimonianza a quella dei suoi servitori, affinché veramente l'Evangelo sia confermato e sia creduto. Naturalmente l'Evangelo continuerà ad essere predicato fino a quando deve essere predicato, perché voi sapete che deve essere predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Allora l'Evangelo, quando anche non fosse confermato in una predicazione da segni, prodigi, guarigioni, rimane sempre potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, ma con le guarigioni, con segni e prodigi viene confermato, viene diciamo rafforzata diciamo la predicazione. E poi ricordatevi che Dio ha stabilito di salvare taluni facendogli vedere guarigioni, segni e prodigi. D'altronde basta leggere la storia di Gesù di Nazareth per capire che ci furono coloro che credettero in Gesù vedendo segni, prodigi, vedendo le guarigioni che compiva, ma ci furono anche quelli che credettero in lui senza, diciamo, avere visto guarigioni o segni e prodigi. Quindi dipende sempre da come Dio ha stabilito di, diciamo, salvare qualcuno, perché la sua sovranità, naturalmente, la sua sovranità è assoluta, non è che è parziale. A Dio non sfugge assolutamente niente. Quindi che si faccia questa preghiera, perché il Signore ascolta il grido dei giusti. Infatti avete visto cosa accadde, che dopo che ebbero pregato il luogo dove erano nati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo. Annunziamo la parola di Dio con franchezza, vedete come era stato chiesto. E poi più in là leggiamo, molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di pari consentimento si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Ma degli altri nessuno ardiva unirsi a loro, e il popolo però li magnificava, e di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti, uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze, li mettevano su lettucci e giacigli, affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. E anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando dei malati, dei tormentati da spiriti immondi, e tutti quanti erano sanati. Vedete dunque come il Signore ascolta la preghiera, che viene elevata a Lui con sincerità di cuore, nel nome di Gesù, con mani pure, con una pura coscienza, per la gloria del suo nome. Quindi che questa preghiera sia, e naturalmente l'esaudimento di questa preghiera sia di incoraggiamento per tutti noi, affinché veramente, diciamo, possiamo vedere la parola di Dio predicata con ogni franchezza, possiamo vedere la mano del Signore guarire e compiere segni e prodigi mediante il nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è benedetto in eterno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.